24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua alle 7:21 minuti. Ben ritrovati in diretta fino alle 9. Oggi c'è Carmelo Lauricella in regia. Abbiamo rottamato il nostro alpino, no? L'abbiamo spedito un po' sui monti per una settimana. E allora con Carmelo Lauricella eccoci qua. Siamo in diretta anche nella nostra pagina Facebook, venite a trovarci 24 mattino. Oggi dalle 8:20 parleremo un po' di attualità politica. Che succede all'interno della maggioranza, che succede con i cosiddetti malpancisti, quelli che chissà vogliono staccarsi, chi lo sa, capeggiati dall'ex ministro Scajola. Questo è uno dei temi anche che troviamo sviluppato sui giornali, l'apertura per molti, e allora proprio dai quotidiani partiamo, andiamo a sfogliarli. È lunedì 10 ottobre, intanto i titoli. A cominciare dal Sole 24 Ore, l'Italia divisa delle pensioni, questo è il titolo di apertura. Al nord 2 assegni di anzianità su 3, al sud il 50% delle invalidità. Per il Corriere della Sera, e qui si va sull'attualità politica, non si accantona Berlusconi, Alfano con il Premier, questo è il titolo di apertura. Per Repubblica, Alfano e Bossi ai ribelli del PDL, Berlusconi non si tocca. La Stampa, Alfano chiude al terzo polo, non si può accantonare Berlusconi. Il Giornale, Formigoni come Veronica, piccoli ingrati crescono. Ce l'ha il Giornale con l'intervista concessa a Repubblica ieri da Formigoni. Il governatore lombardo affida a Repubblica l'out out a Berlusconi, esattamente come fece l'ex moglie del Cavaliere. E poi la vicenda condono per il Messaggero e l'apertura, Marcegaglia no al condono e il Secolo XIX condono pioggia di no. Mentre l'Unità mette in prima pagina Bossi e Berlusconi dal titolo Rivoltati, la base contro Bossi e Berlusconi sotto tiro. Ma da cosa voglio partire, cari italiani? Siete per caso, fate parte di quegli italiani che ieri hanno smoccolato davanti al PC perché avete tentato di compilare il censimento dell'Istat, perché con grande zelo voi l'avete fatto il 9 ottobre, perché il censimento che è arrivato in tutte le case dice chiaramente che bisogna rispondere alle domande cristallizzando tutto, facendo una fotografia al 9 ottobre 2011. Avete tentato l'impervia via telematica di collegarvi col sito dell'Istat e siete stati uno dei 500.000 italiani che sono rimasti fregati. Censimento al via in 500.000 online e il sito va in tilt. Così titola il Corriere della Sera, ma guardate, tutti i giornali vi dedicano una pagina. Il nostro Gianluca Nicoletti, che scrive anche sulla Stampa, una domenica di lotta contro il cervellone dell'Istat. Ieri 500.000 cittadini hanno provato a compilare il censimento, ma il sito è saltato. E anche il Giornale, che stress, il questionario Istat, sembra di rispondere a Marzullo, come rovinarsi la domenica con i quiz tra ansie e paradossi, una domanda che sorge spontanea, ma a voi che ve ne frega? Vabbè, adesso è il momento, in realtà il censimento è una cosa importante per capire quanti siamo, come siamo, fare una fotografia insomma del paese, però certo la partenza è stata di quelle drammatiche, possiamo dire. Ora l'Istat ovviamente è sotto accusa, dice chiediamo scusa, cercheremo di rimediare, continuate a avere fiducia soprattutto nella via telematica, continuate a cercare di compilare l'Istat lì, insomma perdete un'altra giornata e fatelo cari italiani perché è importante. E trovate su tutti i giornali questa polemica. La seconda segnalazione la voglio segnalare dalla prima pagina del Secolo XIX, perché ieri ha chiuso il 51esimo Salone Nautico a Genova con un calo del 13% dei visitatori, ma vi vorrei segnalare l'articolo di Paolo Crecchi in prima pagina del Secolo. Sono povero, mi faccio la barca. I dati del fisco e quelli della nautica. Racconta Paolo Crecchi di come il Salone Nautico sia anche un po' una fotografia di quelle stranezze dell'Italia, dove tantissimi sono coloro che non dichiarano, che dichiarano sotto una certa soglia, ma poi hanno delle barche che, se uno incrociasse i dati del fisco, incrociasse e andasse a vedere quanto costano anche i costi di manutenzione di queste barche, sorge spontanea la domanda: ma come fa questa persona a mantenere questa barca? La prendo in leasing la barca, se no quanto dovrei dichiarare? Sta nel sofferto condizionale di Ignazio Loconte, imprenditore barese del ramo abbigliamento, la spiegazione di tutto, del successo del nautico anche in tempo di crisi e delle ingiustizie d'Italia, dove solo il 2% dichiara più di 74.000 euro e lo 0,8% arriva a 100.000. Di certo il signor Loconte appartiene a questa privilegiata minoranza e si può attardare nello stand dei cantieri napoletani, ma no. Accompagnato dalla bella moglie signora Lucia, dalla figlioletta Asia, 7 anni, vacilla di fronte a un open walk around, un motoscafo a ponte scoperto che costa 69.000 euro IVA esclusa. 4 cabine, 600 cavalli di potenza, il direttore tecnico del cantiere Mario Capobianco fa 2 calcoli, dice: un'ora di navigazione viene a costare 160 euro, ma è il meno, le spese grosse sono la manutenzione ordinaria. 4.000 euro l'anno, l'ormeggio 6.000, i lavori di manutenzione straordinaria da effettuare ogni 3 anni 12.000. Eppure, racconta Paolo Crecchi nell'articolo che continua a pagina 11, un paese di poveri in canna, ma con la barca. Sono tanti gli italiani qui che circolano, non sono certo mica il 2% che dichiara oltre 100.000 euro quelli che frequentano il salone nautico. Sono tanti. Come la mettiamo con il 33% degli italiani che dichiara di guadagnare meno di 15.000 euro lordi l'anno e con il 78% che denuncia un reddito inferiore ai 28.000 euro? Insomma, Paolo Crecchi si fa queste domande nel giorno della chiusura ultima ieri del salone nautico, che ha chiuso con un calo del 13% del numero dei visitatori, ma un calo limitato, 226.000 i paganti, 226.000 contenuti comunque i cali, con il nautico che cala al sipario con un mezzo sorriso. E la domanda, dire: ma come fanno tanti italiani a permettersi certe barche? Allora, sono le 7:34 minuti, eccoci qua rientrati in diretta per continuare nella lettura dei giornali. La politica oggi la fa un po' da padrone. Perché? Perché è una settimana, ma così sempre si dice, che potrebbe apparire decisiva per le sorti del governo. Ci sono i cosiddetti, sono stati definiti dai giornali, malpancisti all'interno del Popolo della Libertà, capeggiati pare dall'ex ministro Claudio Scajola e anche al Senato da Beppe Pisanu, ma le attenzioni sono soprattutto su Claudio Scajola, perché pare che abbia i numeri, i controlli, un numero di parlamentari pronti a fare che cosa? Ecco, il che cosa intanto è un bel puntone di domanda: a chiedere maggiore coinvolgimento, a chiedere facciamo un gruppo separato, addirittura facciamo un gruppo separato e poi votiamo contro, insomma, in maniera autonoma in Parlamento. E questa settimana, giovedì, c'è il voto sulle intercettazioni, quindi anche col rischio di causare un problema politico alla maggioranza serio. Insomma, su questo si interrogano i giornali oggi, anche con una serie di interviste, molti aprono su questo. Il Corriere della Sera: non si accantona Berlusconi, Alfano con il Premier. Mentre Repubblica: Alfano e boss e ribelli del PDL, Berlusconi non si tocca. C'è un'intervista per esempio al coordinatore del PDL Denis Verdini, intervistato dal Corriere della Sera, pagina 3. I frondisti non romperanno. Claudio Scajola non romperà perché non è nella sua natura, non è nella sua storia, non avrebbe senso. Così dice Denis Verdini. Non nasceranno gruppi autonomi, non vedo l'intenzione di farli, forse nemmeno la concreta possibilità. E poi, una volta fatti, uno che vi aderisse, dove andrebbe? Insomma, a che servirebbero? Questo Denis Verdini, che dice riguardo alle primarie di Berlusconi: se le facessimo oggi, chiunque con Berlusconi arriverebbe secondo. Anche Formigoni, che ieri ha criticato duramente su Repubblica, ha detto: almeno Berlusconi dica quando lascerà. L'annuncio di un passo indietro ha libertà di espressione, dice Verdini, ci mancherebbe, ma a decidere sempre la maggioranza. E poi, insomma, dice: non staccheranno la spina né Scajola né Pisanu. Per quanto riguarda Pisano, col quale ho un ottimo rapporto, ritengo che abbia una lunga esperienza politica, molto lunga, e per questa una visione della politica diversa da quella che si svolge in questo periodo. E su Scajola, con lui parlo sempre, sono amico, lo conosco. Non è nella storia né nel suo personaggio di rompere. Insomma, un Denis Verdini che getta acqua sul fuoco. In realtà sui giornali è un po' già partita la conta. Per esempio, il Cavaliere rilancia la campagna acquisti. Carmelo Lo Papa su Repubblica racconta di un Berlusconi che è tornato molto su di morale dal weekend fatto in Dacia tra San Pietroburgo e Mosca per festeggiare il compleanno di Putin, ritemprato, tonico e motivato, così lo racconta un uomo di governo che lo ha sentito. È un Berlusconi che dice riguardo a questi frondisti o malpancisti: non hanno dove andare, insomma lo sfiducino se sono capaci. E Carmelo Lo Papa racconta di un Berlusconi che ha già fatto ripartire, tra l'altro, proprio Denis Verdini, il coordinatore destinato a indossare i panni del Mr. Wolf di Pulp Fiction, risolvo problemi. È stato lanciato in una sorta di caccia all'uomo, cioè secondo Repubblica c'è il tentativo da parte di Berlusconi di convincere alcuni parlamentari di passare dalla sua parte, anche perché la stampa, pagina 3, fa una vera e propria conta di quelli che sarebbero i, ecco, quali chiamano i falchi, quindi da frondisti a malpancisti ai falchi in campo invece per fermare Scajola, quindi malpancisti e frondisti contro falchi, ecco, anche la terminologia è interessante. I frondisti chi sono, capeggiati da Scajola, lo racconta la stampa a pagina 3. Si fa presto a dire gli scaioliani, scaiolani o scaioliani, chissà. Siamo 35, dichiara uno di loro, l'onorevole Ignazio Abrignani. Secondo altri calcoli sono 25, secondo alcuni falchi del PDL sono sì e no una decina. Commenta così un fedelissimo berlusconiano. Allora eccoli qua, Ignazio Abrignani, Salvatore Cicu, Paolo Russo, Massimo Maria Berruti, Michele Scandroglio, Roberto Cassinelli, Massimo Nicolucci, Fabio Gava, Roberto Antonioni, i senatori Lauro e Orsi, Sandro Biasotti già si è sfilato, così fa sapere la stampa. Ho ancora il deputato laziale Gianfranco Conte, che pure è amico di Scajola, ma non sono tra quelli che fanno salti nel vuoto. Insomma, adesso è partita questa grande conta di scaiolani o scaioliani o malpancisti o frondisti contro i falchi. Ecco, la politica si può riassumere in queste parole. L'altro fronte è quello della Lega. La Lega ieri ha avuto un momento in cui c'è stata l'elezione, ma per acclamazione, del sindaco di Cadrezzate, Canton, che è stato nominato segretario provinciale a Varese, e Varese non è un luogo qualunque per la Lega, è la provincia anche dove risiede Umberto Bossi, il leader leghista, e c'è stato uno scontro politico raccontato dai giornali, Bossi per la verità dice inventato dai giornali, da giorni, sul fatto che questo canton sia stato eletto, in realtà eletto per acclamazione, e ieri c'è stata un po' una rottura, comunque una fibrillazione all'interno dei leghisti, del movimento, perché molti, quando è stato deciso di farlo eleggere per acclamazione, con Marco Cremonesi sul Corriere della Sera che racconta questa cronaca così: Andrea Gibelli inizia, per il bene della Lega dichiaro Maurilio Canton segretario, mentre la platea del congresso varesino esplode in un coro duro insistito chiedendo il voto, voto, voto. L'inimmaginabile accade, l'inaudito si verifica. Umberto Bossi è contestato apertamente nella sua Varese, culla del movimento e cuore di Padania, con lui che minimizza: ho visto in seconda e terza fila dei fascisti. Sta di fatto che, insomma, è stata questa elezione del segretario provinciale di Varese, ha causato anche qui mal di pancia all'interno della base della Lega, raccontata un po' dai vari giornali. scoppia la grana varese, così titola anche il quotidiano nazionale. Bossi che dice le riforme e poi le elezioni, ma scoppia la grana varese. Anche per Repubblica Rodolfo Sala fa la cronaca dicendo: nella sala urlano, questo è un soviet, e al senatur vengono le lacrime agli occhi. Tra l'altro voglio ricordare che di questo tema, cioè della Lega, si occuperà Oscar Giannino alle 9, e dunque di quello che c'è, quello che si sta muovendo all'interno del movimento di Umberto Bossi. Insomma, come vedete, c'è un Berlusconi che è tornato tonico, racconta Repubblica, dal weekend in Russia, ma un Berlusconi che deve far fronte anche a questi, a questa settimana nella quale giovedì si vota anche sulle intercettazioni. E molti parlamentari paiono un po' indecisi. Per questo Giuliano Ferrara sul Foglio, nell'editoriale del lunedì, torna a spronare il Cavaliere, l'editoriale dal titolo «Quel figo del Cavaliere che si è messo l'etichetta di Tamarro». Scrive Giuliano Ferrara: come ne usciamo? Dico io, tu che leggi, chi ha votato per dare un matto ai liberali, per il Cavaliere, uomo generoso e improvvido. Come ne usciamo? Gli altri sono divisi, alcuni invocano Piazzale Loreto, una bella epurazione, ma sono costituzionalisti dementi e giornalisti vernacolieri, una adunata di fascisti e trotskisti proprio imbarazzante, gente che Montanelli avrebbe preso a calci nel culo. La sinistra sulle spalle, quella con la testa sulle spalle, i centristi e i democristiani non invocano Piazzale Loreto, anche se strillano e berciano una generica antipolitica di riporto, in modo tale che alla fine potrebbero, se le cose si mettessero molto male, prendere posto in prima fila, magari al governo. A noi non resta che premere su Berlusconi. Se volete anche palparlo, lo dico per i più giovani, non ci resta che dirgli ad alta voce quello che pensiamo di lui, che è un figo. Brutta parola, ma sdrammatizzante, il quale si è fatto appiccicare l'etichetta tamarra del declinista e che ha subito il paradigma moraleggiante in economia e in etica. Si confessi, eccolo qua, chieda scusa, l'ennesimo invito di Ferrara a Berlusconi. Si liberi dal complesso di colpa, fuck you Mr. Freud, e tornerà quello di sempre. Non ha fatto niente di cui vergognarsi, certo, ma deve tornare a fare qualcosa di cui tutti possiamo vantarci. Parola di un ateo devoto, così conclude Giuliano Ferrara il suo articolo. Mentre un altro tema che torna prepotente, anche se è stato un po' negato dalla maggior parte dei politici, anche Umberto Bossi ha detto non ne vedo il motivo, del condono. Ieri anche Emma Marcegaglia, il presidente di Confindustria, è andata da Fabio Fazio su Rai 3 a dire il condono premia i furbi, è una scelta sbagliata, ma il tema del condono rimane. La Russa, per esempio, dice discutiamone, non bisogna demonizzare, criminalizzare il condono. C'è qualcuno che apre timidamente sul condono, altri invece chiudono. Oggi Gian Antonio Stella, in prima pagina del Corriere della Sera, fa un editoriale dal titolo «Basta condoni, sono una truffa». E allora, basta condoni, sono una truffa, così l'editoriale di Gian Antonio Stella in prima pagina del Corriere della Sera oggi. Sul promontorio di Capo Vaticano, che Giuseppe Berto definì uno dei luoghi più belli della Terra, svettano due ville transgeniche. I proprietari hanno scavato due enormi buche, ci hanno costruito dentro il pavimento, le pareti, chiesto il condono, vasche di irrigazione, poi tolta l'acqua, rimossa la terra intorno, aperte le finestre, ci hanno piazzato sopra un tetto e voilà! Due ville. Uno Stato serio le butterebbe giù con la dinamite, non prendi per il naso lo Stato nei paesi seri. Da noi no. Anzi, nonostante sia sotto attacco da anni, l'unica ricchezza che abbiamo, cioè la bellezza, il paesaggio, il patrimonio artistico, c'è chi torna a proporre un nuovo condono edilizio. E allora, scrive Stella, vale almeno la pena ricordare pochi punti. Il primo, che la rivista fiscooggi.it dell'Agenzia delle Entrate, al di sopra di ogni sospetto, ha calcolato che dal 73 al 2003 lo Stato ha incassato coi condoni edilizi, tributari e così via 26 miliardi di euro, cioè 15 euro a testa l'anno per italiano. Una pizza e una birra. In cambio è stato annientato quel poco che c'era di rispetto delle regole. Secondo, Il Comune di Roma, per fare un esempio, dai due condoni edilizi del 1985 e del 94 ricavò complessivamente in moneta attuale 480 milioni di euro, 1.543 per ognuna delle 311.000 abitazioni sanate. In compenso, fu costretto per ciascuna a spenderne in opere di urbanizzazione oltre 30.000. Somma finale, un rosso da 28.500 euro ogni casa condonata. Bell'affare. Terzo, la sola voce di un possibile condono in un paese come il nostro, dove secondo gli studi dell'urbanista Paolo Berdini esistono 4.400.000 abitazioni abusive, scatena febbrili corse al mattone sporco. Ricordate le rassicurazioni dopo l'ultima sanatoria? Disse l'allora ministro Urbani che il condono era limitato a piccolissimi abusi, finestre aperte o chiuse che riguardano la gente per bene. Come sia finita è presto detto. Dal 2003 a oggi sono state costruite, secondo Legambiente, 240.500 case abusive, compreso un intero rione vicino a Napoli di 73 palazzine per un totale di 450 appartamenti. Ecco perché Gian Antonio Stella dice basta ai condoni. Per quel che riguarda la politica invece segnalo, ieri c'è stato l'interrogatorio, il faccia a faccia di Filippo Penati, che si è presentato alla Guardia di Finanza di Monza, è stato interrogato, si è presentato con un trolley pieno di documenti, immortalato anche delle telecamere. Penati, 9 ore dai PM, mai preso soldi, così titola pagina 7 della stampa. Paolo Colonnello, chiarito tutto, parola di Filippo Penati, ma si è mai visto un indagato dichiarare il contrario dopo un lungo interrogatorio? Così anche l'ex presidente della provincia di Milano, forzatamente sorridente al termine di quasi 9 ore di confronto davanti ai PM monzesi, non sfugge alla regola, aggiungendo però un paio di cose molto precise: mai preso tangenti per l'affare Serravalle e nemmeno un euro dagli altri imprenditori. Così anche sul Corriere della Sera, Penati dai PM per 8 ore con una valigia di carte, ovviamente non si sa al momento, magari trapelerà qualcosa di questo interrogatorio, al momento non si sa che cosa abbia detto. Sul Sole 24 Ore invece voglio segnalare, c'è un interessante focus sulle pensioni, l'Italia divisa delle pensioni, la discussione sulle pensioni non si è mai arrestata del tutto. Un'Italia spaccata in due, pensioni di anzianità al nord e invalidità e assegni sociali al sud. Queste le coordinate territoriali dentro cui si muove il dibattito politico sulla previdenza, ed è questa geografia a spiegare meglio di ogni altra cosa le rigidità, le possibili aperture dei partiti sulla ipotesi di riforma difficile da realizzare, anche se non ancora del tutto archiviata, fa sapere il Sole 24 Ore. Per esempio, le pensioni di anzianità sono soprattutto 2 su 3 al nord. Al nord il 65% dell'anzianità. Ecco perché, per esempio, la famosa frase di Bossi: non si toccano le vecchiette. Gianni Trovati fa capire che anche dalla redistribuzione, dalla distribuzione degli assegni di pensioni si può capire perché alcuni partiti mantengono un certo atteggiamento rispetto ad altro, a un altro atteggiamento sulla riforma o possibile riforma delle pensioni. In ogni caso questo lo troviamo sul Sole 24 Ore, lo trovate a pagina 3. Oh, io devo chiudere, due segnalazioni veloci. La prima è questa. C'è un blogger italiano, ne parla il Corriere della Sera, ma non solo, anche l'Unità, pagina 33, un blogger italiano, Filippo Sensi, che ha incastrato di fatto il ministro della difesa britannico, Liam Fox, che ha detto del suo amico Adam Verity: non partecipa mai a incontri ufficiali. E invece, grazie a questo scoop di un blogger italiano che ha immortalato la foto del ministro della difesa britannico insieme al suo amico Adam Verity, che stringe la mano a un capo di stato estero, allora questo ministro della difesa britannico rischia ora le dimissioni. Oggi dovrà dare spiegazioni molto chiare alla Camera. E insomma, questo blogger italiano ha rilanciato questa foto ripresa da tutti i quotidiani britannici e ha fatto scatenare questo putiferio politico. E poi una notizia che c'è sui vari giornali, l'abbiamo anticipata anche prima, sul Giornale un'intera pagina, addirittura su Repubblica un trafiletto, così il Quotidiano Nazionale: non è una barzelletta, è un quartiere in rivolta contro i sordomuti, fanno troppi schiamazzi. Succede a Padova un caso paradossale: i vicini denunciano gli studenti disabili di un convitto dicendo fanno troppi schiamazzi, non riusciamo più a dormire. Solo che queste persone denunciate sono sordomuti. Paradossi anche questi. Questo dell'Italia. 24 mattino. Allora, le 8 e 21 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori, eccoci qua. L'attualità politica, di questo vogliamo parlare oggi. Parleremo più avanti di queste voci, di complotto, complottini, complottoni all'interno della maggioranza. Prima però vogliamo concentrarci su una notizia che è apparsa la settimana scorsa sul Corriere della Sera. Per questo saluto il presidente del Consiglio della Regione Lazio, Mario Abruzzese. Buongiorno e benvenuto, presidente. Buongiorno a tutti. Allora, ci ha molto colpito ciò che scriveva Sergio Rizzo sul Corriere della Sera. In Lazio, su 71 consiglieri, ce n'è solo uno che non ha un bonus alla paga, pare già l'auta, 7.755 euro, questo ce lo può confermare intanto? Sì, questo, sì. Questa sì, è la paga, sì, del consigliere regionale in Lazio, 7.755 euro, cosa, netti? Sì. Netti. Però 71, hanno tutti, avete tutti un bonus, chi è presidente di una commissione, e ce ne sono 20, chi è vicepresidente, chi è presidente del gruppo in consiglio regionale, quindi un bonus anche per quello. Perché, presidente? È perché il regolamento dice questo, quindi c'è un regolamento che prevede la presenza di 16 commissioni permanenti e 5 speciali. Quindi e perché, regolamento... perché non lo cambiate, sì, presidente, questo regolamento? È un qualcosa che è allo studio. Io sono arrivato a maggio dell'anno scorso, quindi abbiamo già lavorato molto per quanto riguarda il taglio dei costi della politica, no? Quindi abbiamo fatto grandi cose per quanto riguarda anche l'eliminazione di alcuni costi superflui che esistevano nel Consiglio regionale, quindi come la soppressione per esempio della sede storica di Via Poli, quindi una sede importante del Consiglio regionale dove si pagavano circa 300.000 euro l'anno, quindi io però lei dice, ho insomma eliminato, diciamo, un sacco di costi inutili. Però perché questa, cioè, quello che appare proprio un qualcosa di un piccolo privilegio un po' strano. Guardi, cioè perché questi bonus aggiuntivi, già la paga è molto lauta, come le 17.755 euro. Sì, ma non sono bonus aggiuntivi, sono, diciamo, delle indennità che spettano ai presidenti, che se non sbaglio dovrebbero essere circa 600 euro, quindi sì, oltre all'indennità, diciamo, di consigliere regionale. Però, ripeto, questo noi sto già lavorando per quanto riguarda la modifica dei monogruppi e lavoreremo in questi giorni anche per quanto riguarda, diciamo, la modifica delle commissioni. Ma perché questa, presidente, ripeto, effettivamente... però vorrei anche precisare una cosa molto importante, perché poi alla fine si parla e si fa dello scandalo in politica citando, diciamo, il costo della politica su un bilancio di 27 miliardi di euro, quindi il costo della politica incide per lo 0,20%, quindi questo è il costo reale. Quindi c'è un po' di demagogia, lei dice. Certo, perché il costo della politica soprattutto va individuato nella burocrazia, nella gestione della spesa, nella gestione concreta delle risorse pubbliche. Però ecco, lei ha citato questa parola, monogruppi, che a me fa impazzire da anni. Cioè ci sono, sì, giusto per far capire, ci sono 15 gruppi consigliari, ma 8 di questi gruppi, notate bene la parola gruppi, sono formati da una sola persona, cioè il monogruppo, un gruppo formato da uno, e questo consigliere, perché è per il fatto di essere presidente del gruppo formato da se stesso, prende un'indennità come capogruppo, cioè un'indennità aggiuntiva. Questo, presidente, cioè come spiegarlo a un qualsiasi cittadino italiano che sente questa follia? Intanto questo esiste perché esiste, diciamo, un regolamento, e quindi quando c'è un regolamento bisogna rispettarlo, È chiaro che è un regolamento che deve necessariamente essere modificato. Io ho già convocato due commissioni della Giunta per il Regolamento per modificare questa delibera del Consiglio regionale. Molto probabilmente riusciremo in settimana prossima a chiudere i lavori in commissione. Attualmente esistono comunque, come diceva lei, otto monogruppi, però tre eletti, eletti direttamente dal popolo, perché quando diciamo si presenta al corpo elettorale, si viene eletti, quindi si rappresenta un partito, sì. Lì si giustifica. Ho capito, ma si faccia un regolamento che i partiti con una persona si devono unire, non lo so, cioè nel senso, oppure togliamo l'indennità a chi è il capogruppo, perché certo. Cioè, nel senso, quello che voglio dire, che lei dice giustamente, ha citato tre volte il regolamento, ma prenda un impegno a cambiarlo in fretta. Il regolamento può e deve essere modificato, quindi questo è fuori discussione, quindi ci sto lavorando per chiudere immediatamente anche questa modifica regolamentare. Mm. Il suo stipendio è vero, se ce lo vuole, se ce lo può dire, ma credo certo, sia pubblica, ma non ci sono è 10.086 euro con l'indennità da presidente ovviamente del Consiglio regionale. Sì, vero. È tanto, è troppo, è giusto? Ma guardi, penso che sia giusto, perché noi, almeno per quanto mi riguarda, lavoriamo tantissimo, corriamo su e giù per la nostra regione, copriamo 378 comuni, quindi è uno stipendio giusto, anche perché poi con lo stipendio bisogna anche mantenere, diciamo, le strutture politiche, le segreterie, quindi tutta una serie di interventi economici che servono poi a mantenere tutta una serie di rapporti con gli amministratori locali, con i sindaci, gli assessori, i consiglieri provinciali. Capirà, però insomma sono sempre 10.000 rotti euro, cioè sono. Lei però dice uno stipendio giusto, diciamo, per l'impegno, certo. Per l'impegno che facciamo. Per sì, perché lavoriamo 24 ore al giorno, Lavoriamo tantissimo. Beh, adesso, Presidente, 24 ore al giorno, stento a crederlo, no? Vabbè. Sì, no, per dire che lavoriamo tanto. Io sono uno che parte la mattina alle 7 da Cassino, quindi ritorno la sera a mezzanotte l'una. A proposito, ma è vero che ci sono anche rimborsi chilometrici per la macchina che utilizzate alla Regione? No. Questo no? No, perché no. Sergio Rizzo scriveva anche questo, ci sono i rimborsi chilometrici per chi usa la macchina, no, lo smentisce questo. Pronto? Sì, lo smentisce questo, cioè non ci sono i rimborsi. No, i rimborsi ci sono per i consiglieri che non hanno, diciamo, la macchina a disposizione, quindi. Cioè in che senso a disposizione? Cioè i consiglieri che non hanno, diciamo, la macchina regionale, quindi c'è il rimborso chilometrico. C'è il rimborso chilometrico. Sì, anche sì, questo. C'è il rimborso. Va bene, Presidente, io la ringrazio per essere stato con noi. Mi raccomando, cambiatelo questo regolamento, visto che siete voi. Io ci sto lavorando, molto probabilmente lo faremo immediatamente. Va bene, immediatamente. Grazie. Spero a giorni, visto che lavorate così tanto, giustamente, prendete tanti soldi, fatelo al più presto. Intanto la ringrazio, buona giornata, per essere stato con noi, Presidente del Consiglio della Regione Lazio, Mario Abruzzese. C'è il regolamento e quindi insomma bisogna seguire il regolamento, in attesa ovviamente che venga cambiato. Allora, sono le 8:35 minuti, per intervenire in diretta 800 24 00 24, parliamo di attualità politica. Ha detto che molti ancora ci mandano messaggi sull'intervista al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mario Abruzzese, che ha detto c'è il regolamento e quindi non si può, non si, stiamo cambiando il regolamento. Per il momento ci sono anche 8 capi gruppi di monogruppi consigliari alla Regione Lazio che prendono per questo un'indennità da capogruppo. Va bene, l'attualità politica invece nazionale, complotti, complottini, complottoni e condoni, questi temi sul piatto di questa settimana. Intanto voglio salutare il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, buongiorno e benvenuto Giannini. Buongiorno, grazie. Adesso siamo in attesa di collegarci. Due minuti fa abbiamo parlato col direttore del giornale Alessandro Sallusti, adesso lo stiamo richiamando perché la linea è caduta, ma sarà con noi tra poco. Intanto Giannini, si dice sempre settimana decisiva, parliamo di questo Come chiamarli? Repubblica li definisce malpancisti, qualcun altro frondisti, cioè quelli all'interno del PDL capeggiati da Scajola, che non si sa cosa vorranno fare, qualcosa vorranno fare, ma non si sa bene che cosa. È da qui che potrebbe succedere una crisi addirittura parlamentare? Giannini, Berlusconi dice di no, che è sicuro che non andranno da nessuna parte. Guardi, io non mi sbilancio perché con questi ex post o neodemocristiani non si sa mai bene dove si può andare a parare. Certo, siamo in presenza di quelle che io definirei senza esitazioni scene di fine regime, quando si avverte l'impressione netta di un potere che sta declinando, tutti coloro che non si fidano e sperano di poter perpetuare la propria posizione cercano di ricollocarsi in vario modo. Questi sono quelli appunto che sui giornali in questi giorni definiamo malpancisti, frondisti o ribelli. E devo dire che affidare le sorti del cambiamento di questo paese, anche del cambiamento della natura del centrodestra per come lo abbiamo conosciuto in questi anni di berlusconismo dominante, a personaggi come Claudio Scajola o come Beppe Pisanu, nei cui confronti si può nutrire tutto il rispetto che si vuole, ma che ovviamente rappresentano un po' un'idea superata della politica, è abbastanza stravagante. E io credo che sia parte del paradosso italiano nel quale ora ci troviamo. Sì, non è proprio il nuovo che avanza, ecco, così almeno da un italiano che voglia osservare la politica anche un po' dall'esterno, non è il nuovo che avanza, insomma, Scajola e Pisanu, no? No, direi proprio di no, e aggiungo un altro elemento di valutazione. Fin tanto che non si saprà con relativa certezza qual è la piattaforma politico-programmatica che questi frondisti oppongono a quella pur inesistente di Silvio Berlusconi, sarà anche difficile capire su quale base politica può nascere questo cambiamento, e resterà, io credo, al fondo il sospetto che si sia in presenza di movimenti che nascono dal fatto che alcuni, buona parte dei parlamentari che sentono avvicinarsi lo spettro, il fantasma delle elezioni anticipate, cercano un riposizionamento per evitare di dover andare a casa. Un riposizionamento. Vogliamo chiederlo anche al direttore del giornale, eccoci qua, Alessandro Sallusti. Buongiorno e ben ritrovato, Sallusti. Allora, oggi come li definisce lei, malpancisti, frondisti, ingrati, come li definisce Sandro Bondi, intervistato, si riferisce per la verità proprio a Formigoni, che ieri su Repubblica ha fatto un'intervista nella quale ha detto anche Berlusconi, insomma, annuncia un passo indietro. Come li definisce questi all'interno del PDL, Sallusti? Ma ci sono due livelli di discorso. Il primo è un livello politico, il PDL è diventato un partito, chiamiamolo normale, non che prima fosse anormale, prima era un partito monolitico, era un partito dove era soltanto il leader a portare a casa il risultato elettorale, e quindi essere legittimato a non essere messo in discussione. Alla luce del risultato delle amministrative, il PDL è diventato un partito normale, dove le correnti, che non è che prima non esistevano, hanno preso forma e hanno preso voce. E quindi mi sembra, è un dibattito interno che avviene nel PD, avviene nei dividi di Pietro, avviene fino alla formazione di Vendola. Poi c'è un piano personale, Bondi li chiama gli ingrati, anch'io penso come Bondi. Sono ingrati. Sono ingrati anche perché sono persone che sono state recuperate da Berlusconi, che altrimenti non avrebbero avuto una loro casa in grado di portarli dove sono. E quindi, c'è sicuramente dal punto di vista personale un problema di ingratitudine. Io ho il sospetto che il ministro Pisanu, una bravissima persona, ci sia anche una questione personale, nel senso che era ministro degli interni, non è stato confermato e quindi è in cerca di un riposizionamento. funzionamento. Il ministro Scariola era ministro, non è più ministro, e quindi cerca di riposizionamento. Cioè cercano un posto un po' più comodo all'interno del partito. Però le vorrei chiedere anche questo, Sallusti, perché ieri sul giornale è apparsa questa notizia, visto che abbiamo anche il vice direttore di Repubblica. Il giornale ieri titolava in prima pagina così: il pizzino di De Benedetti, so che il premier lascerà. De Benedetti, che è anche l'editore di Repubblica, cioè scrive il giornale, De Benedetti, interrogato dai giornalisti, ha detto: presto Berlusconi sarà costretto a farsi da parte. Un avvertimento sibillino che lascia intendere come l'ingegnere sia a conoscenza di trame sconosciute alle spalle del premier. Sallusti, siamo cos'è una, in realtà una battuta politica da parte di De Benedetti, o addirittura l'idea di che De Benedetti sappia qualcosa che l'Italia non sa? Ma noi l'abbiamo definito un pizzino, anche un messaggio un po' mafioso, che ricorda molto quello che lanciò D'Alema alcuni mesi fa quando annunciò la famosa scossa. E poi si è scoperto, lui disse soltanto una battuta, e poi si è scoperto invece che era conoscenza di trame giudiziarie che poi avrebbero preso corpo e forma nella famosa inchiesta prima di Bari e poi di Napoli. Quindi, come dire, siccome essere sospettosi non si sbaglia, è possibile che De Benedetti sia a conoscenza di altre trame che al momento sono coperte, ma che presto usciranno allo scoperto. Non so, Giannini, qui l'idea, noi ci si esercita in Italia l'idea dei complotti e complottoni, insomma, non l'idea che ci sia sempre un complottone. De Benedetti sa qualcosa che nessun altro sa in Italia, c'è qualcosa che sta arrivando, qualche colpo? Non mi avventuro mai nel dibattito sui rispettivi editori, che non mi appassiona. Io penso molto più banalmente che non esistano pizzini, non esistano complotti, ma credo e ritengo di poterlo dire con relativa certezza che De Benedetti, che è abbastanza frequentemente all'estero, parla con i circuiti della business community all'interno della quale, non da oggi, da settimane, per non dire da qualche mese, e questo lo conferma tutta la grande stampa internazionale, non fa altro che ripetere quello che stiamo già scrivendo tutti quanti sui nostri giornali, cioè l'impressione che Berlusconi abbia ormai giorni contati. Del resto l'azione politica del governo è inesistente. Quello che si vede sono solo le lacerazioni interne alla maggioranza, sia di tipo politico, come appunto sono quelle che riguardano i frondisti o i malpancisti, sia di tipo personale, come sono quelle che riguardano, io credo ancora più gravi, i rapporti tra Silvio Berlusconi e Giulio Tremonti, perché nel momento in cui si deve rilanciare l'azione del governo a partire dalla cosiddetta scossa all'economia, si scopre poi che sul dettaglio delle ricette Berlusconi continua ad avere un'idea, Tremonti un'idea completamente opposta. Il risultato è l'immobilismo. Tutto questo all'estero lo si vede, lo si tocca con mano quotidianamente. Del resto i nostri problemi sui mercati finanziari derivano in buona misura da questo, e se lo spread tra i nostri titoli e quelli tedeschi continua ad essere, diciamo, contenuto in una forchetta che non ci espone al pericolo di default, questo si deve soltanto al fatto che la BCE continua a comprare a piene mani i nostri titoli di Stato. De Benedetti credo quindi che abbia dato un giudizio tranchant quanto si vuole, ma che riflette esattamente questo stato di cose. Nessun complotto, ripeto, meno che mai un pizzino. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Tra l'altro c'è anche il tema del condono che rimane in settimana, c'è anche il tema delle intercettazioni. Giovedì si vota e tutti appunto a chiedersi che faranno. Quello sarà un banco di prova per i cosiddetti frondisti, se ci sono nel PDL. Voteranno come voteranno? Giovedì si vota sulle intercettazioni. E allora, alle 8.47 minuti, 800 24 00 24, sentiamo Franco dalla provincia di Massa Carrara, ci ha chiamato. Franco, buongiorno. Buongiorno, dottor Milan. Dica. Ascolti, io volevo intervenire a proposito del condono. Sì. Nel 2009 c'è stato, se mi ricordo bene, poi lei potrà confermarmelo, comunque c'è stato già un condono per chi aveva portato dei soldi all'estero. Sì. Gli era data la possibilità di far entrare questi capitali tassandoli soltanto al 5%. Mi sembra di ricordare. Sì. Mi sembra di ricordare anche che il Parlamento fu tutto d'accordo, a parte quei 24, mi sembra 25 deputati del PD che saltarono la votazione e quindi permisero a quella legge di passare. Un'altra cosa volevo dire velocemente, cerco di essere veloce. Io sono un artigiano, mi trovo da un po' di tempo in difficoltà per via di Equitalia. Noi non siamo evasori fiscali, noi siamo persone, e ce ne sono tante come me, che in un momento particolare della vita si sono trovati un po' in difficoltà, non sono riusciti a pagare le tasse, quindi il nostro è un discorso diverso. Noi non siamo evasori fiscali, noi siamo gente che abbiamo dichiarato, ci siamo trovati in difficoltà e non siamo riusciti. Guardi, ma Luca Ricolfi, per esempio, sulla stampa di recente ha detto ci sono vari evasori fiscali, quelli che lo fanno, e evasori fiscali come imprese, io mi fido di quello che lei mi dice, come imprese come la sua, di persone che si trovano in difficoltà, che se dovessero con la pressione fiscale pagare tutto, rischiano di trovarsi in questi momenti con poi Equitalia che bussa alle porte. Quindi che vuol dire lei? Doppiate, litigate con difficoltà con le banche perché non ci concedono prestiti in un momento difficile come questo, oppure un semplice fido per andare avanti, ci sono grosse difficoltà per quindi, noi. Quindi lei vuole arrivare a dire che cosa? Cioè che vorrebbe un condono, non vorrebbe, mi dica. Io vorrei la possibilità semplicemente di rimettermi in carreggia, ma è possibile che in Italia c'è un paese che è forte con i deboli e deboli con i forti? Perché a chi evade il fisco e chi porta i soldi all'estero gli viene data la possibilità di far rientrare i capitali tassandoli solo un 5%, e a noi che non siamo evasori fiscali ci raddoppiano le sanzioni, ci mettono ipoteche sulle case, sulle macchine, sui macchinari? Va bene, questo è semplicemente la mia domanda. È assolutamente chiara, la ringrazio Franco. Luca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Milano. Io volevo fare una domanda al direttore e amico Sallusti. Io da sempre ho sempre votato a destra, inizialmente Fini, il post tradimento di qualche anno fa, devo dire che mi sono sempre riconosciuto nell'ambito del PDL e probabilmente faccia la domanda a Sallusti. Continuerei a votare PDL. Il tema era fondamentalmente questo: fra qualche anno, guardandoci indietro, per che cosa ricorderemo Berlusconi? Sandro sarà ricordato insieme al direttore Feltri, all'amico Di Giore, per aver riportato in attivo il giornale, per averlo reso uno dei primi quotidiani in Italia, sia come standing che come numero di copie. Ma che c'entra? Invece che dopo qualche anno, per cosa sarà ricordato? Per cosa sarà ricordato? Sallusti? Ha migliorato la giustizia, ha risanato l'economia, ha ridotto i costi della politica. Vediamo, grazie Luca. Sallusti, per cosa sarà ricordato Berlusconi? Beh, sarà ricordato perché da 18 anni impedisce che il paese venga governato da forze sicuramente meno liberali e più radicali di quelle che l'hanno governato in questi 18 anni, il che non è poco. Non dimentichiamoci che il governo Prodi, nell'ultima esperienza, in pochi mesi ha annullato la riforma delle pensioni, ha cancellato le grandi opere, ha ipotizzato un aumento della tassazione non su una spinta d'emergenza, ma proprio come strategia per risanare il debito. Insomma, aver tenuto il paese dentro dei binari liberali, sia pure senza riuscire a fare tutto quello che aveva promesso di fare, a me sembra già un risultato che merita di essere ricordato. Poi, sicuramente non è, diciamo che non è neanche stato fortunato, perché tra l'11 settembre, la crisi finanziaria internazionale, insomma. Ma è la sfortuna, dice. Beh, spesso è meglio essere sfortunati che bravi, però certo non ha trovato un periodo particolarmente favorevole per fare delle riforme strutturali. Allora Giannini, che rispondiamo all'ascoltatore di Massa Carrara che ci dice lo Stato è forte coi deboli e debole coi forti, riferita alla sua situazione personale e al condono che si profila, che sente nominare? Ma gli rispondiamo che, appunto, al contrario di quello che sosteneva il vostro ascoltatore e di quello che ha ora riconfermato Alessandro Sallusti, questo governo non ha fatto nulla di liberale in tutti questi anni, ma io penso che sarà ricordato da questo punto di vista soprattutto per le operazioni compiute a vantaggio dei soliti noti, perché ha ragione l'artigiano che ha chiamato prima a lamentarsi per il fatto che il governo di centrodestra faccia la faccia feroce con chi non può scappare e invece tolleri ogni genere di non rispetto delle regole da chi è potente. Lo scudo fiscale è stato uno scandalo da questo punto di vista. Anche altri paesi hanno fatto una misura di quel tipo, ricordiamo la Gran Bretagna, ma si sono ben guardati dal tassare i capitali che rientravano solo con il 5%, hanno applicato un'aliquota del 45%, quindi c'è un abisso tra il modo in cui altri governi hanno approcciato il tema non solo del risanamento ma anche del recupero di evasione fiscale rispetto a quello che ha fatto questo governo, con un paradosso in più che è di questi ultimi mesi, perché nel momento in cui tardivamente e colpevolmente il Ministro dell'Economia ha capito che l'Italia stava per essere travolta dal rischio dei debiti sovrani e ha innescato una rapida retromarcia per annunciare una manovra lacrime e sangue, all'interno della quale c'è anche stato il rilancio, anche in questo caso sorprendente, della lotta all'evasione, addirittura ipotizzando il carcere per chi non paga le tasse, sì. Ebbene, a distanza di due mesi stiamo qui a parlare ancora una volta di un condono, cioè di un colpo di spugna e quindi che di chissà, fatto, come ha detto ieri la Marcegaglia, un premio ai furbi. Chissà siamo se ci veramente sarà. Alla maionese impazzita. Intanto abbiamo due minuti. Lei oggi, Giannini, scrive su Repubblica e parla della legge Bavaglio, come la definisce Repubblica, quella sulle intercettazioni che giovedì si vota. Ma è davvero una legge Bavaglio oppure alcune storture anche da parte di Repubblica, come di altri giornali, alcune esagerazioni nella pubblicazione sono state fatte? Ma guardi, che sia una legge bavaglio non è che lo scrive e lo sostiene soltanto Repubblica. Voglio ricordare che solo un anno fa c'è stata una manifestazione in difesa della libertà di stampa alla quale hanno aderito la quasi totalità, non voglio dire la totalità perché Sallusti effettivamente non c'era, dei giornalisti italiani. Aggiungo anche che sotto il profilo del rispetto del pluralismo dell'informazione, questa legge è stata considerata nefasta anche da organismi internazionali o sovranazionali, quindi ripeto, non è una battaglia che sta facendo solo Repubblica. Quanto alle esagerazioni, teniamo conto, e anche questo purtroppo fa parte della manipolazione della realtà alla quale abbiamo assistito in questi mesi, che anche questo grande messe di intercettazioni che sono state rese note e pubblicate in queste ultime settimane, sì, in questi ultimi mesi, non hanno violato nessuna legge vigente. Violazioni no, però magari abbiamo tutti pubblicato, almeno per quanto ci riguarda, testi di intercettazioni che erano agli atti, depositati a beneficio delle difese, dunque consultabili da chiunque, e che avevano una stretta attinenza con da un lato i reati dei quali la magistratura si stava e si sta occupando, dall'altro lato effetti e valutazioni di ordine politico da parte dei protagonisti. Nessuna violazione, siccome nessun abuso. Ho 20 secondi, Sallusti, lei come si pone sulla idea del carcere per i giornalisti che l'onorevole Paniz ha detto, anche ha confermato da noi? No, io volevo in 20 secondi dire che non è vero quello che dice Giannini, non è vero che non sono state commesse violazioni perché sono stati pubblicati intercettazioni di deputati onorevoli di un ministro che non potevano essere fatte, addirittura è stata pubblicata un'intercettazione che non esiste perché l'intercettazione della Merkel non esiste agli atti, sì. Non è vero che in tutti i paesi non è possibile intercettare e pubblicare come in Italia, ma c'è la libertà di stampa, perché sostenere che è vero quello che dice Giannini vorrebbe dire che in Inghilterra, in Francia, in America non c'è la libertà di stampa, allora, il che ovviamente è falso. Ci dobbiamo fermare, grazie a Massimo Giannini, vice direttore di Repubblica, Alessandro Sallusti, direttore del giornale, e allora con Elisabetta Fusconi, Viola Bottoni in redazione, con Calmero Lauricella in regia, ci troviamo domani alle 7:20.